Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica a tutti da Magazine 24, appuntamento con i settimanali, i mensili che trovate in edicola, italiani ma anche stranieri. Questa mattina proviamo a fare anche qualche incursione oltre confine. Cominciamo da un argomento oltre confine su un mensile che è però italiano. Il mensile in questione è Il, come sapete, è un mensile che viene proposto con Il Sole 24 Ore e trovate già da qualche giorno questo numero in edicola a disposizione appunto con il nostro quotidiano. Da Las Vegas Damiano Beltrami ci informa che i croupier dei casinò di questa città famosa del Nevada, famosa per i giochi e per il gioco d'azzardo, stanno pensando di intentare una serie di cause e alcuni già si sono mossi per via del fumo passivo. Perché? Perché c'è questa particolarità. Tutti sappiamo quanto gli Stati Uniti siano contrari al fumo. Ci sono degli stati dove tra un po' sarà vietato fumare anche per strada, ma ci sono delle zone franche. Una di queste zone franche è proprio quella dei casinò. Allora, Damiano Beltrami da Las Vegas ci informa che negli Stati Uniti i fumatori sono dei reietti, che a New York la prossima estate non si potrà più accendere una sigaretta neppure a Times Square. Si è scoperto poi che gli ospedali evitano di assumere fumatori perché vogliono risparmiare con le assicurazioni mediche. C'è solo un angolo, scrive Beltrami, in cui i fumatori hanno ancora diritto di cittadinanza: sono i casinò di Las Vegas. E infatti un avvocato di San Francisco che si chiama Mark Lopez spiega che lui va a Las Vegas sì perché glielo diverte il poker, ma soprattutto per fumare in santa pace, e dice: odio quelle vecchiette della mia città che mentre ti accendi una sigaretta borbottano, quella roba ti ammazza. Lo stato di Las Vegas, il Nevada appunto, 4 anni fa ha approvato una legge che vieta di fumare nei locali pubblici, ma la lobby dei casinò è riuscita a strappare una deroga. Tuttavia, stufa del fumo passivo, nell'ottobre del 2009 una croupier che si chiama Kenny Kestrel ha avviato una class action, un'azione di quelle che si possono poi rendere collettive, quindi raggruppando più persone, contro il casinò. Voleva 5 milioni di dollari perché appunto esposta al fumo passivo dei clienti. I legali della casa da gioco hanno chiesto al giudice di accantonare il caso perché appunto la legge consente ai clienti di fumare. Però all'inizio del 2010 il giudice ha respinto questa richiesta e ha notato che i diritti dei dipendenti esposti a fumo passivo potrebbero essere altrettanto importanti di quelli dei clienti. Qui si stanno schierando ancora gli avvocati dell'una e dell'altra parte. E chiaramente le società, i casinò stessi sono preoccupati perché temono che bandire le sigarette sgonfi il business. L'azzardo e il tabacco, spiegano appunto altri giocatori interpellati da Beltrami, sono una sorta di ghiaccio e whisky, cioè sono quasi un binomio inscindibile, e quindi per questo i casinò temono un po' questa azione collettiva legale avviata da una croupier e alla quale presumibilmente potrebbero aggiungersi altri suoi colleghi. Restiamo in qualche modo fuori dall'Italia, questa volta proprio anche con la testata che prendiamo in considerazione. Si tratta dell'Economist. L'Economist ci parla della crisi delle videocassette. Effettivamente le videocassette sono, come dire, un prodotto che ha conosciuto tempi più felici. Ora, vuoi perché superate dalla tecnologia, vuoi perché superate da un consumo diverso, da un'offerta diversa di film da parte delle televisioni, da parte di internet, eccetera, diciamo non se la passano per nulla bene. Uno degli editoriali di apertura dell'Economist riassume così la questione, dice: nel film The Ring, probabilmente lo ricorderete, che era poi, ci avverte sempre l'Economist, un remake hollywoodiano di un film dell'orrore giapponese, una videocassetta aveva effetti mortali per tutti coloro che la guardavano. Nella realtà sta accadendo esattamente l'opposto, cioè coloro che guardano, i consumatori appunto di film, stanno uccidendo il business del home video hollywoodiano, perché appunto le videocassette si vendono sempre meno, le persone stanno rapidamente scoprendo nuovi modi per vedere i film a casa, e queste nuove modalità mettono in grave rischio una delle parti più redditizie del business, appunto, dei film. In videotape e diciamo poi anche dischi in generale, quindi aggiornando dalla videocassetta, dal supporto videocassetta al supporto CD-ROM, più o meno in America questo complesso valeva il 29% del mercato dell'home entertainment, cioè dell'intrattenimento domestico, quindi quasi un terzo di intrattenimento domestico era dato proprio dall'acquisto e dalla visione di film su supporti videocassette o CD che fossero. Questo avveniva nel 2004 e naturalmente poi è crollato, adesso il valore è molto molto inferiore, e la pirateria viene indicata naturalmente, come accade anche da noi, anche in America, tra una delle ragioni principali. Ma non è la sola, perché in realtà quello che stanno cercando di fare le major, cioè le case produttrici di film, è proprio di fornire delle nuove modalità di vedere i film, ad esempio utilizzando questo sistema che si chiama del cloud in computing, cioè di potersi collegare alla rete, vedersi il film in qualsiasi momento con qualsiasi supporto, magari un telefonino particolarmente adatto che consenta anche una visione soddisfacente. Ma è un dato di fatto che appunto la distribuzione digitale, il passaggio al digitale ha pesantemente influito proprio anche su questo aspetto della diffusione delle videocassette e dei CD-ROM, dei film messi su CD, che oramai appunto hanno un mercato sempre inferiore di anno in anno. Restiamo su un altro tema dei nostri tempi, ma questa volta torniamo in Italia per parlare di federalismo. Probabilmente avete letto sui giornali, avete sentito alla radio che si stanno discutendo i vari decreti che devono dare attuazione al federalismo. Di federalismo si occupa nella sua rubrica, che è appunto intitolata Il Federalista, Luca Antonini su Panorama, e Antonini dice che il problema, diciamo uno degli obiettivi più importanti del federalismo, è quello di combattere l'evasione. Spiega che nel 2010 il contrasto all'evasione è aumentato del 32%, questo se siete lettori ad esempio del Sole 24 Ore o ascoltatori di Radio 24 lo avete saputo già da noi nei giorni scorsi, ma una svolta decisiva, dice lui, la potrà produrre il federalismo fiscale. Perché? Perché in Italia esistono 8.000 comuni e il 72% di questi 8.000 comuni ha meno di 5.000 abitanti. Questa situazione da un lato è un problema, perché comuni troppo piccoli difficilmente realizzano economie di scala e organizzazioni efficienti, ma dall'altra può essere un vantaggio. Perché? Perché questi comuni sono un sensore sul territorio, in grado di conoscere gli stili di vita e la capacità contributiva effettiva. Cosa significa? Spiega lo stesso Antonini: se uno viaggia in Ferrari nel comune lo sanno. Allora, già a inizio legislatura sono stati introdotti premi per i comuni che aiutano il contrasto all'evasione, e in base a questi meccanismi in Emilia Romagna l'Agenzia delle Entrate ha già potuto raccogliere 8.000 segnalazioni con accertamenti per 56 milioni di maggiore imponibile. Allora, in questa direzione il nuovo decreto che dà attuazione a una parte del federalismo, il cosiddetto fisco municipale, permetterà un decisivo passo avanti, perché i comuni avranno ulteriori incentivi per andare a segnalare appunto gli evasori, come è accaduto, segnala Antonini, in Emilia Romagna. Non per entrare in polemica col professor Antonini, però questi incentivi sono lì da parecchio tempo e c'è sempre stato e probabilmente ci sarà sempre anche l'imbarazzo degli amministratori comunali a segnalare i loro stessi elettori. Quindi è vero che sicuramente la maggiore vicinanza al territorio aiuta a vedere le situazioni più macroscopiche, è anche vero però poi che gli amministratori amministratori sono un po' a mal partito nel dover denunciare alla fine coloro che poi devono dare loro il voto. Hanno un maggiore accesso ai dati dell'anagrafe tributaria, anche in forza appunto del federalismo, e questo dovrebbe aiutarli a guidare le segnalazioni per il fisco. Però, ripeto, non è mai stato semplice bilanciare le due esigenze, quella appunto del politico che vorrebbe essere rieletto e quella del politico che tuttavia ha il dovere di far rispettare anche un'ordinata gestione della cosa pubblica, nella quale rientra anche il pagamento delle tasse. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Forse qualcuno degli ascoltatori ricorderà che in qualche puntata fa abbiamo parlato dei nuovi santi. Avevamo tratto la segnalazione da un giornale straniero. Questa volta un settimanale italiano ha fatto più o meno lo stesso catalogo di nuovi santi, di santi dei tempi e dei mezzi moderni. E il settimanale in questione è Vanity Fair, e Don Luigi Garbini, quindi come dire, persona competente in materia, ci segnala che ci sono anche dei santi che proteggono ad esempio internet. Allora, ricorda poi sei santi: Santa Chiara d'Assisi è la patrona della televisione e delle telecomunicazioni. Questo è stato proprio deciso poi da Pio XII nel 1958, mentre Sant'Isidoro di Siviglia, che è protettore degli studenti, sponsorizzato anche da chi online cerca di orientarsi, segnala appunto Don Garbini, in un mondo sconosciuto. C'è in realtà un dibattito su chi possa essere il santo più adatto per internet. Lo stesso Papa Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, nel 2003 aveva candidato appunto Sant'Isidoro di Siviglia, però il Vaticano non ha mai reso ufficiale questa candidatura, quindi c'è anche un dibattito in rete su quale possa essere il santo più adatto. Il sestetto di santi proposto appunto da Vanity Fair comprende anche naturalmente l'Arcangelo Gabriele, che è a buon diritto il patrono della comunicazione, ma compare anche Sant'Alfonso Rodriguez, San Giuseppe da Copertino, che appunto come si sapranno i nostri ascoltatori che hanno fatto l'università, viene considerato il santo che aiuta a superare gli esami impossibili, il santo dei miracoli impossibili per gli studenti. E poi naturalmente San Cristoforo, perché essendo protettore dei viaggiatori, degli automobilisti, dei ferrovieri, può essere anche lui adatto a gestire appunto il mondo del web, a essere il patrono del mondo del web. Un argomento decisamente più leggero è quello che ci viene proposto su Donna Moderna nella rubrica di Geppi Cucciari. Geppi Cucciari ha tutte le settimane una colonna in cui prende garbatamente in giro alcuni vizi, alcuni atteggiamenti della nostra vita quotidiana, del nostro modo di fare. Questa settimana si è concentrata sull'arte femminile di ordinare al ristorante. La colonnina è spassosa, dice: la festa della donna è alle spalle, ma molti di voi si saranno concesse una serata rosa con le amiche, e allora tutta la nostra solidarietà va agli sventurati camerieri o cameriere che si sono trovati a servire tavolate di donne più o meno scalmanate. Perché scalmanate, dice, noi abbiamo un gene che ci impedisce, una volta sedute sulla sedia di un ristorante, di ordinare una portata dal menù esattamente come il cuoco l'ha ideata. Sentiamo il forte bisogno di reinterpretare, aggiungere un tocco da qualsiasi ordinazione. Allora, il galletto a modo nostro della casa, che è concepito dallo chef con zucchine trifolate, pomodori, eccetera, diventerà un galletto a modo tuo, dove magari si tolgono i pomodorini, l'erba cipollina però non in crosta ma a parte, e così via. Dice, persino in pizzeria si può notare questa arte particolare. 10 donne, ripeto, lo scrive una donna, Geppi Cucciari, non vorrei essere accusato di misoginia, dice, 10 donne in pizzeria sono in grado di ordinare 10 margherite con 10 variazioni diverse: normale, ricotta, gigante, bianca, doppia mozzarella, poca mozzarella, mozzarella solo di bufala, con origano, senza basilico, con capperi, ben cotta, un po' cruda nei bordi. Chiamatela pedanteria, dice la Cucciari, chiamatela fantasia in cucina, chiamatela generosità organizzativa nei confronti del ristoratore, chiamatele semplici intolleranze, ma moderatevi, non fanno parte di nessuna operazione simpatia che si rispetti. Allora, abbiamo scherzato, abbiamo alleggerito un po' con questa divertente colonna di Geppi Cucciari che trovate su Donna Moderna. Veniamo a un argomento che si riallaccia di più invece al santo patrono per internet, che è Justin Bieber. Molti di voi magari diranno: ma chi è Justin Bieber? Ecco, Justin Bieber è un fenomeno musicale che è nato proprio grazie a internet. Ha soltanto 17 anni, ha venduto 10 milioni di dischi. Adesso ne faranno anche un film. Lorenzo Soria sull'Espresso di questa settimana ci racconta appunto questo ragazzo fenomeno che deve la sua notorietà appunto al fatto che un video di una sua interpretazione canora fu messo dalla mamma, lui all'epoca aveva 12 anni, su YouTube. La mamma lo mise perché voleva mostrare quanto era bravo il ragazzino, voleva mostrarlo alla nonna, e in realtà non lo vide solo la nonna, lo videro milioni e milioni di persone, e questo ragazzino è diventato un fenomeno. Tra l'altro, molto carino l'attacco del pezzo di Lorenzo Soria, dice: la figlia di Johnny Depp, si chiama Lily Rose, ha 12 anni ed è abituata a stare accanto a persone ricche e famose, a sentire il papà raccontare dei suoi incontri con stelle del cinema, rockstar e presidenti. Ma quando giorni fa, tornato a casa, le ha raccontato che, mentre stava facendo interviste, Justin Bieber ha bussato alla sua porta perché voleva conoscerlo, Lily Rose è quasi svenuta. Chi hai visto, Justin Bieber? Racconta Depp imitando la voce della figlia. Improvvisamente, dice sempre Depp, ha cambiato il colore della faccia, ha cominciato a sudare e la cosa mi ha un po' turbato, anzi mi ha proprio sconvolto. Come milioni di altri padri in giro per l'universo, Depp farebbe meglio a rassegnarsi. Quando le ragazzine, a volte anche le mamme, vedono Bieber a un concerto, rimangono sconvolte, urlano, spesso si sfilano il reggiseno con la scritta I am a Belieber, cioè sono una che crede in Bieber. Adesso arriverà anche nelle sale cinematografiche il documentario Justin Bieber Never Say Never, cioè mai dire mai. È un successo senza precedenti, è costato 13 milioni di dollari, ne ha già incassati circa 70 negli Stati Uniti. Allora, con questo principino del pop, come lo chiama l'Espresso, noi chiudiamo la nostra trasmissione di oggi. Grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza in regia questa mattina, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato in questa rassegna. Magazine 24 ritorna sabato prossimo.